Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi. Oggi è il 18 maggio, questa è la seconda edizione di Italia in controluce, è il programma di Radio 24 dedicato alla cronaca, alla politica, alla cultura, allo spettacolo delle città. Vi parla Daniele Biacchesi. Proseguiamo il viaggio sull'Italia che esce dall'ultima tornata elettorale, un viaggio che naturalmente si definirà meglio ai ballottaggi. Intanto, dopo Piero Fassino, Vincenzo De Luca, nuovi sindaci di Torino e di Salerno, oggi incontriamo Giuliano Pisapia, la vera sorpresa di queste amministrative. Avvocato, parlamentare, già presidente della Commissione Giustizia della Camera. Lo ha intervistato per noi Paola Nania. Mi sento una persona che si è candidata a sindaco di Milano e che ha fatto vincere la città di Milano, non vincitore io ma vincitore tutti quelli, sono migliaia e migliaia di persone che si sono impegnate per il cambiamento di Milano. È preoccupato per il ballottaggio? No, chiaramente un minimo di tensione c'è, un minimo di preoccupazione c'è, ma ho assolutamente la certezza, anche sulla base di quello che ho vissuto oggi, oltre che ieri sera che è stata una festa grandiosa per tutta Milano, ma i continui messaggi, la vicinanza, la disponibilità che se ho sentito anche oggi mi dà assolutamente la convinzione che il rischio che a Milano il centro-sinistra e soprattutto una coalizione più allargata che si rivolga a tutti i milanesi come quello che intendo essere fare io non potrà perdere Milano. Il distacco è così elevato che rende difficile che si possa perdere, tanto più se si considera che, come dimostrano tutti i ballottaggi del passato a Milano, sono stati al secondo turno, sono molto minore le persone che vanno a votare e che hanno votato il primo turno centrodestra che viceversa. Però il Movimento 5 Stelle già ha detto che non darà indicazioni, stiamo parlando più o meno di 3,5 punti. L'UDC, il terzo polo in genere, per ora non ha sciolto la riserva, è probabile che non dia indicazioni. Ecco, visto che Grillini e terzo polo sono abbastanza determinanti, poi potrebbero essere determinanti, come commenta questa posizione? È una posizione che loro hanno dichiarato da sempre, hanno sempre mantenuto, ma il non dare indicazioni di voto non significa che poi gli elettori del Movimento 5 Stelle non vadano a votare o almeno una parte di loro non vada a votare, e siccome hanno sempre dichiarato che chi va a votare avrebbe votato il meno peggio, sono convinto, conoscendo i loro programmi e conoscendo il mio programma, che il meno peggio lo trovano non solo nel mio programma ma anche nel candidato del centro-sinistra, anzi dico di più che vi sono molti punti del programma che sono addirittura identici. Quindi diciamo gli elettori del Movimento 5 Stelle li dà tra virgolette per scontati? No, una parte degli elettori, altri credo che non andranno a votare. Per quanto riguarda invece il terzo polo, secondo lei gli elettori del terzo polo riusciranno ad avvicinarsi al suo programma, alla sua figura, oppure è difficile? Come la vede? Parto da un dato oggettivo, e cioè che da analisi molto serie, non recenti ma confermate anche recentemente, il 50% degli elettori del terzo polo ha fiducia nella mia persona, e chiaramente bisogna trasformare la fiducia in voto. Ma quello che è certo è che non hanno fiducia nella Moratti. Allora, se io ho la possibilità che gli elettori del terzo polo possano votarmi, sono assolutamente certo, sulla base proprio di quello che emerge dalle analisi e anche dalle dichiarazioni di alcuni di loro, soprattutto a Milano, che non voteranno certamente la Moratti. Quindi al limite rimane un risultato come quello di oggi, ma io credo che sarà un risultato ancora migliore per il candidato del centro-sinistra, proprio perché propone un patto per Milano. E vorrei ricordare che Palmieri ha detto più volte che a lui non interessa in questo momento lo schieramento di centrodestra e di centrosinistra, ma gli interessa Milano. Allora ha due alternative, se gli interessa Milano può dire e dice che la Moratti non può andare bene perché ha devastato Milano in questi 5 anni. Dall'altra parte c'è una persona credibile che ha un progetto molto unitario che si rivolge a tutti i mondi positivi di Milano, e quindi ho dei segnali che anche da quella dall'elettore del Terzo Polo mi possa arrivare un consenso significativo. Dove ha sbagliato in campagna elettorale Letizia Moratti? Se ha sbagliato qualcosa oppure semplicemente il risultato è un po' lo specchio dell'amministrazione che secondo lei appunto è stata inefficace? No, ha sbagliato nel non governare Milano e nel non interessarsi dei milanesi per oltre 4 anni e 8 mesi, nel senso che non ha avuto nessun dialogo con i milanesi, non si è confrontata, non ha sviluppato gli elementi di democrazia e di partecipazione diretta, non ha dato risposta ai problemi principali di Milano, quelli dell'aria, del lavoro che manca per i giovani e non solo per i giovani, quella della mobilità. L'Ecopass è stato un fallimento, l'unica cosa positiva che però rimarrà da governare e credo e spero che sarà il centro-sinistra a governarla è l'Expo, ma l'Expo non è stata una vittoria del Moratti, è stata la vittoria di un'Italia che si è riunita, perché allora governava Prodi, ma Bonino ha avuto un ruolo determinante per l'assegnazione a Milano e quindi quell'Expo è una manifestazione, sarà una manifestazione di tutti e per tutti e soprattutto per Milano, per rilanciare Milano dal punto di vista sociale, economico e culturale. È stato più un voto, secondo lei, quello di Milano per premiare lei, Giuliano Pisapia, al centrosinistra o per punire Berlusconi? Io credo che sia stato un voto per punire la Moratti e Berlusconi, la Moratti in quanto ha male governato Milano, Berlusconi perché invece di parlare dei problemi di Milano e dei bisogni di Milano e dei milanesi ha parlato solo dei suoi problemi personali, soprattutto giudiziari, e dall'altro è un voto che premia una persona, una coalizione, una persona che è da mesi e mesi che si sta occupando di un confronto continuo con le varie realtà milanesi e una coalizione finalmente unita e non litigiosa. È l'inizio della fine del berlusconismo? L'inizio di un vento che è cambiato, non solo a Milano. Michele Traversa del centrodestra si è aggiudicato la sfida a Catanzaro, lo ha intervistato Jacopo Mattano. Oltre al programma che ho presentato, a me ha premiato la mia attività passata e le varie incariche istituzionali che ho ricoperto, perché sono stato assessore regionale al turismo, sono stato presidente dell'amministrazione provinciale per 2 mandati e quindi ho realizzato moltissime opere nella città di Catanzaro che mi hanno dato quella visibilità e quella notorietà all'interno di Catanzaro come uomo del fare. Ho spaziato dal quartiere Marinaro per rilanciare il turismo nautico e lanciare Catanzaro Lido e Catanzaro dal punto di vista turistico e commerciale e tante tante altre iniziative e programmi che io ho portato a conoscenza della città di Catanzaro. Proprio sulle cose da fare, Catanzaro è una città però difficile per la presenza dell'andrangheta. Come farà a mettere al riparo gli appalti e i cantieri dall'infiltrazione della criminalità organizzata? Io sono stato presidente dell'amministrazione provinciale, non ho mai avuto un avviso di garanzia, non ho mai avuto problemi all'interno dell'amministrazione provinciale, nonostante ho fatto centinaia e centinaia e centinaia di gare d'appalto e spendendo nei nove anni di amministrazione provinciale circa 600 miliardi di vecchie lire, cioè in gare d'appalto, quindi di conseguenza incidendo principalmente sulla macchina burocratica e facendo le cose con non correttezza amministrativa. Pensi che in passato io, per quanto riguarda gli incarichi per esempio dei professionisti, ho sorteggiato e ho fatto sì appunto che alla fine tutte le opere sono state portate a compimento e non mi sono stati problemi, perché naturalmente è stato fatto tutto alla luce del sole. La precedente amministrazione di Catanzaro era di centrosinistra. Era di centrosinistra. Dove si segna invece la sua discontinuità con quell'amministrazione? Io sono un amministratore, quindi ho preferito assolutamente non dire niente durante la mia campagna elettorale dell'attività fatta dalla vecchia amministrazione. Io purtroppo adesso alla fine della campagna elettorale devo constatare che la situazione è in un enorme degrado, cioè vi sono dei quartieri assolutamente in condizioni veramente penose, cioè sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista strutturale per quanto riguarda le strade e sia per quanto riguarda la mancanza di fognature c'è l'aperto, quindi c'è bisogno di fare un lavoro enorme. Qual è dunque il primo provvedimento che firmerà da nuovo sindaco di Catanzaro? Il primo provvedimento è quello di portare subito in consiglio comunale l'approvazione del bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, perché siamo già a metà anno e ancora i conti non sono a posto, i bilanci non sono stati approvati e quindi questo servirà immediatamente per liberare le risorse e attuare gli investimenti che sono già in programmazione. Naturalmente ci sono delle priorità da affrontare immediatamente, stiamo per affrontare la stagione estiva e quindi bisogna intervenire sul quartiere Marinaro per pulire l'arenile e il lungomare e una pineta di Giovino che è stata abbandonata al degrado più assoluto. Poi successivamente a settembre inizierà l'anno scolastico e c'è la necessità di intervenire immediatamente sulle scuole affinché siano messi in sicurezza per evitare appunto che i ragazzi vadano lì col pericolo anche di avere qualche incidente. Ecco, queste sono le tre cose da fare immediatamente per affrontare al migliore dei modi questo periodo che va dall'estate all'inizio dell'anno scolastico. Italia in Controluce è la seconda edizione, siamo su Facebook, Twitter, il nostro blog lo trovate su radio24.it, così come tutte le puntate che potete ascoltare e scaricare. controluce@radio24.it è la mail per contattarci. Torniamo domani 6:30 su Radio 24 con una vicenda triste e ancora poco chiara di Perdas de Fogo, piccolo luogo della Sardegna.